Bella Roy che ci ha fatto il beat con la tripla X. Questo non è uno dei soliti intro. No, no, no. Questo non è uno dei soliti. Questo è XXX. Yeah. E questa volta le cose si fanno davvero. Si fanno sul serio. Questa volta si fa sul serio. Primo impatto con la luce di fuori, mi ci vuole un po' di tempo per riuscire ad adattarmi. Mi sento addosso ai mille occhi elettronici della mia cittadina e 30.000 abitanti. È la provincia qua, vita tranquilla, ma alcuni non li vedo in giro da anni. Chi appena può si dà, chi invece resta qua. Io me ne andrei che non ho mai sacchi. Io nella piccola città faccio rap in giro. Io nella piccola Chiavari mi arrabbo e me la tiro. Io di certo non mi sento un tipo, ma sento il tipo. Alla punta arrivo puntuale ben vestito. Tramite Facebook ti invito. E la tua ragazza va pazza per i link che condivido. E convivo con la disillusione da quando sono vivo. Da piccolo dicevo da grande sarò un grande. Ora da grande non so. Da piccolo dicevo da grande sarò un grande. Ora da grande non so. Da piccolo dicevo da grande sarò un grande. Ora ci sto sotto. Da piccolo dicevo da grande sarò un grande. La prima volta che mi hanno fatto fuori è stata quella in cui ho pensato che dovevo adattarmi. In cameretta gli apparecchi elettronici e trasmetto pure in radio a 4-5 abitanti. È la provincia qua, gente tranquilla ma a qualcuno sto sul cazzo da anni. Ma arti che si può si fa. E mentre spingo qua ho realizzato che non ci faccio i sacchi. Nella mia città, nella mia città mi trovi in giro poco. Sono in casa a fare giochi e dici gioco proprio. Ho calcolato che l'odio prima mi carica poi godo. E facendo tutto sto modo prima esplodo poi muoio. Ma se spari cazzate, questo per dire la tua. E poi ti danno mazzate. Quel bacino sulla tua, dalla mia. Non ho tempo né voglia. Se ragiono se ho torto carico l'otto. XXX qui carica il lotto. Ascolta i magi ora. E non si molla la prima. E non si molla la prima. Ma devi riavvicinarti all'underground. Ma non so che c'è sempre una seconda. Ma solo per chi continua. Da piccolo se, dicevo se, da grande sarò un grande. Ora da grande non so. Da piccolo dicevo da grande sarò un grande. Ora da grande non so. Da piccolo dicevo da grande sarò un grande. Ora ci sto sotto. Da piccolo dicevo da grande sarò un grande. XXX numero 8.